100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Se la colomba, le uova e l'agnello pasquali sono un indicatore economico della fiducia degli italiani, non c'è ancora molto di cui rallegrarsi. Qual è, insomma, il bilancio di Pasqua e Pasquetta? Ieri, nonostante le condizioni del tempo non fossero le migliori, in 8 milioni hanno deciso di trascorrere la classica Pasquetta fuori porta. Nel complesso, gli italiani hanno speso quest'anno 1,3 miliardi per i cibi pasquali, più o meno tanti quanti nel 2015, quindi non cali ma nemmeno progressi significativi. L'83% delle famiglie, secondo dei dati della Coldiretti, non ha rinunciato alla tradizione del pranzo pasquale a casa e al ristorante si è registrato un calo di presenze dell'1,1% nel giorno di Pasqua, ma un aumento dell'1,5% invece nei giorni di Pasquetta. E sono aumentate del 7% le presenze per una vacanza breve in Italia e questo è un buon dato. Va detto però che è calata un po' la spesa per i dolci e quella per la carne d'agnello, che nel solo weekend della Pasqua registra il picco del 70% dell'intero consumo annuale, che è pari a 26.000 tonnellate. Quanto alle uova di Pasqua, sono leggermente aumentati gli acquisti in volume, anche se in valore più o meno sono rimasti uguali, e gli italiani hanno speso 250 milioni di euro. La Federazione Pubblici Esercizi segnala che quest'anno i ristoranti in attività a Pasqua sono stati il 90% del totale contro il 92% dell'anno scorso e per il 25% dei ristoratori la clientela servita per il pranzo di Pasqua è inferiore a quella del 2015. Il bilancio complessivo è di un numero di clienti pari circa 3,5 milioni, che sono appunto in calo dell'1,1% rispetto all'anno scorso, per una spesa complessiva stimata di 164 milioni di euro. Insomma, positivo il primo bilancio per il giorno di Pasquetta, aperti 8 ristoranti su 10, in leggero aumento rispetto al 2015, ma insomma c'è voglia di festa, ma la festa purtroppo ancora non è qui. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La flessibilità nelle regole europee sui bilanci pubblici è cruciale per il successo delle riforme strutturali, ma quella chiesta dall'Italia ormai un anno fa è troppo poco e troppo limitata nel tempo. È la conclusione di uno studio del Centro Studi Confindustria, messo a punto da Alessandro Fontana e Luca Paolazzi, che sostiene come far conto solo sullo 0,5% di flessibilità, che sono a occhio e croce 8 miliardi di euro, e per giunta per un solo anno, è del tutto insufficiente e penalizza quelle riforme che abbiano costi iniziali superiori alla soglia di compatibilità e siano protratte più a lungo nel tempo, come sono quelle fatte dall'Italia, peraltro in tema di lavoro, concorrenza, semplificazione, giustizia e infrastrutture. Per il CSC quindi occorre invertire l'orientamento del Consiglio europeo, recuperando lo spirito originario della flessibilità nei conti pubblici dei Paesi membri. Il CSC ricorda che la flessibilità di bilancio è stata pensata come un incentivo per adottare virtuose riforme strutturali e investimenti e per i Paesi che sono riusciti con alti costi sociali a ridurre i deficit pubblici sotto la soglia del 3%. Oltre che naturalmente per fronteggiare situazioni eccezionali come un flusso migratorio straordinario o una congiuntura economica particolarmente negativa come sono i casi accaduti all'Italia. La clausola delle riforme è la parte più rilevante della flessibilità, sia politicamente sia economicamente, ma imporre rientri troppo accelerati e ridurne la portata quantitativa può azzerare il percorso riformista e addirittura può portare a situazioni politiche che penalizzino proprio le riforme perché potrebbero portare a bocciare i governi riformisti. Insomma, sarebbe, come si suol dire, una bella eterogenesi dei fini, l'Europa è avvertita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.